Su quel ramo del lago di Como c'è un merlo che fa. Quando fischia il suo pomo d'Adamo saltella qua e là. Anche il treno che passa da Como si ferma e gli fa. E la folla che sta lungo il ramo con lui fischia già. Un milione se balla la samba, per vederla ha già dato un raia. Un miliardo se fischia la rumba, con gli amici ha scommesso un pascià. Su quel ramo del lago di Como quel merlo non sa che una statua del merlo sul ramo farà la città. Su quel ramo del lago di Como c'è un merlo che fa. Quando fischia il suo pomo d'Adamo saltella quella. Anche il treno che passa da Como si ferma e gli fa. E la folla che sta lungo il ramo con lui fischia già. Un milione se balla la samba, per vederla ha già dato un raia. Un miliardo se fischia la rumba, con gli amici ha scommesso un pascià. Su quel ramo del lago di Como quel merlo non sa che una statua del merlo sul ramo farà la città.